Ciao ragazze! Ciao! Ciao! Dai, va bene, iniziamo! No, no, said I've pondered long, listening to Mother Nature's song. And let me tell you, son, life ain't just for fun, but if you want to have a ball, here's how you get it done. You got to do it. Allora, buonasera, buonasera. Come state? Speriamo tutti bene. Speriamo di sì. Speriamo tutti bene, un po' infreddoliti immagino, perché in questi giorni decisamente fa più freddo del solito. Noi sicuramente oggi siamo state infreddolite. Sì, devo dire che gli edifici non sono sempre molto riscaldati in questo periodo. Meglio stare all'aperto tra le nostre amate piante, non trovi, Zazzi? Molto, sono molto d'accordo. Oltretutto oggi sicuramente appunto all'interno degli edifici c'era freddo, fuori c'era un bel sole, quindi sì, viva l'aria aperta. Viva l'aria aperta, viva il polline che fluttua nell'aria, cominciamo a vederlo e a sentirlo per tutti gli allergici che ci seguono. Insomma, questa sera. Ormai lo sanno tutti che sei allergica. Ormai sì, l'ho detto praticamente a tutti quanti, compresi voi, ma nessuno sa chi sono, quindi sarà comunque un'informazione svelata, ma senza problemi, non trovi? No, no, è assolutamente un'informazione utile. Utile, sì, per sapere che anche il nostro amato polline crea dei problemi, anche i nostri amati alberi e tutto. Comunque, allora, questa sera ci troviamo come al solito su Radio Wombat e per la prima volta mi ricorderò io il sito e tutte quante le referenze da dire e quindi sappiamo che ci si trova su radiowombat.net e potete interagire con noi durante la puntata in ogni momento quando volete andando appunto su questo sito radiowombat.net e accedendo al pad da cui si può accedere appunto andando, mi sembra, sì, sul fondo della pagina dove troviamo o ascolta la diretta, dovrebbe essere lì, il Sì, il bottoncione giallo. bottoncione giallo da dove ci state ascoltando tutti voi e appunto sul pad voi potete scrivere liberamente senza necessità di inviare. Quindi basta che voi digitiate e noi leggeremo tutti i vostri bei messaggi e cercheremo di rispondere e di interagire con voi. Oh yeah, quindi siate numerosi, anche perché, dai, come sempre, uno ci dice se ci sono problemi tecnici, il che succede. Succede spesso con Eh noi, sì. compresi anche i nostri ritardi, però stiamo riuscendo a contenerli nell'ordine dei 20 minuti o 15 minuti, come 15, Dai, sì, stiamo quarto d'ora migliorando. accademico di ritardo, quello è sempre, cioè, sempre Vabbè, uno se lo giustificato. aspetta, Sì, insomma, due insomma. secondini. Anche perché così, no, dopo cena, tempo di riposarsi un po' prima delle nostre lezioni piene di dettagli sulle nature varie delle piante, sulle loro caratteristiche. Esatto. Però questa sera non sarà una puntata così pesante, ve lo assicuriamo, sarà una serata simpatica di musiche e allegria con me e Zazzi. Zazzi e Sissi, con Zanzi e Sissi, questa sera siamo solitarie, siamo a conversare tra noi e voi, si spera. Dai, sì, venite, conversate. Sempre di argomenti molto naturali, molto come si dice, argomenti piantofili, Vegetazionali. vegetazionali, argomenti vegetazionali, mi piace, mi piace, mi piace. E nulla, questa sera quindi che cosa abbiamo deciso di fare, Zanzi, ce lo racconti un po'? Allora, che cosa abbiamo deciso di fare? Visto che siamo in due, abbiamo sì voglia di parlare, ma anche di ascoltare. Sì, E quindi abbiamo detto, boh, ascoltiamoci delle canzoncine. ascoltiamoci delle canzoni, Anche parliamo un po'. perché sì, siamo state un po' rimproverate sul fatto che ci perdiamo a parlare e mettiamo canzoni dopo tantissimo tempo. Quindi abbiamo deciso invece di migliorare, le concentriamo tutte in una puntata, così poi possiamo Così poi continuare. nessuno ci può dire che non vi facciamo ascoltare musica e stiamo a Esatto, chiacchierare, a esatto. spiegare e basta. E invece faremo una puntata molto musicale. E inoltre, quindi, non lo so, se ci siete, potete scrivere anche voi canzoni o... sì, titoli, insomma, di canzoni, sì, che vi ricordano magari... che vi ricordano i boschi, che vi ricordano gli alberi, i fiori, la natura, o anche che vi ricordino, che ne so, adesso vedremo, ambienti misto cittadino urbano, ambiente campagnolo, insomma tutto quello che vi viene in mente, una canzone che può essere interessante da ascoltare, magari anche poi di cui parlare, potete consigliarcela sul pad, che dove si trova, Zazzi? È il pad, ecco, vedi, non la dici tutta però. No, prima l'ho detto, solo che magari per chi si è appena collegato, okay, è bene ripeterlo. Allora, il pad si trova in fondo, vicino al bottoncione giallo, c'è scritto scrivici mentre siamo in diretta, diretta pad. Lì potete cliccare, un altro bottoncione giallo ocra, dai, e dove giallo potete iniziare a scrivere etch, oppure anche dalla sezione contatti. Quindi accorrete. Accorrete numerosi. Cosa dici? Possiamo cominciare questa nostra puntata musicale facendo ascoltare un brano? Cosa te ne pare? Dai, ci sto, allora, visto che l'abbiamo detto, sì, bensì dopo 5-10 minuti, partiamo subito col brano. Bravissime. Comunque, allora, in questo caso in realtà pensavamo di farvi ascoltare un brano che penso conosciate quasi tutti di sicuro, di cui in realtà vi faremo ascoltare due versioni, e facciamo così, facciamo un po' un gioco, visto che ormai facciamo i giochi ogni puntata, vi coinvolgiamo. E questa volta facciamo un po' un sondaggio. Vi facciamo sentire la stessa canzone in due versioni e vediamo quale vi piace di più. Ce lo potete dire sul pad, va bene? Esatto. Molto bene. Allora, a tra poco, ve lo diciamo dopo che canzone è o ce lo dite voi, insomma. No, ce lo dicono loro, al massimo ce lo diciamo da sole. Va bene. A tra poco, buon ascolto. Ora. Quando sei qui con me, questa stanza non ha più pareti, ma alberi, alberi infiniti. Quando sei qui vicino a me, questo soffitto viola non esiste più. Io vedo il cielo sopra noi che restiamo qui, abbandonati come se non ci fosse più. Niente, più niente al mondo, suona un'armonica, mi sembra un organo che vibra per te, per me, su nell'immensità del cielo. Sembra un organo che vibra per te, per me, su nell'immensità del cielo, per te e per me. stanza non ha più pareti ma alberi infiniti. Quando tu sei vicino a me, vabbè, scusate, non interrompere perché rischiamo di addormentarci, sì. Non abbiamo problemi a dirla, era un po' troppo sì. Ma però, così volevamo farvi Mina, sempre una voce bellissima, Mina. Vi abbiamo spoilerato un po' chi è che cantava, immagino lo sapeste già, e però insomma sì, una bellissima voce, ma questa versione a me fa un po'... Sì, diciamo che ha fatto canzoni migliori, ecco. Decisamente canzoni migliori, decisamente. Comunque, vediamo che avete riconosciuto ovviamente la canzone, ce lo aspettavamo, dai, insomma. E anche voi preferite quella di Gino. Quella di Gino, che a me fa venire in mente Iginio Massari, è da prima che sento Gino e mi viene in mente Iginio Massari, forse perché ho fame. Iginio Massari. Può essere che sia perché ho fame. Buono. Davvero. Comunque, tornando a noi. Iginio Massari. No, vabbè, il nostro caro Gino, quindi ha fatto questa canzone che a mio parere è bellissima, a me piace proprio tanto, Il cielo in una stanza, per chi non lo sapesse. Quindi svelata. Svelato il titolo della canzone, che a me personalmente piace tanto, anche un po' per il modo, no, in cui lui mette a confronto queste pareti che spariscono e diventano alberi, e mette appunto a confronto questi alberi con l'amore che prova per questa donna. Tu mi, tra l'altro, mi hai svelato un aneddoto molto divertente riguardo, cioè non è divertente, però è interessante. Sì, sì, perché vabbè, credo ormai sia una cosa abbastanza nota, però è giusto anche dirlo, che questa canzone in realtà, cioè in realtà è stata dedicata a una prostituta. Mm-hmm. E questa cosa personalmente appunto mi piace anche molto, perché toglie un po' da quell'idea che bisogna avere un amore che ti faccia sentire certe sensazioni, eccetera, solamente diciamo... Comunque si toglie anche le prostitute da per forza una categoria, esatto, un po' maldista. Esatto, esattamente. Quindi che non sia per forza sempre, non so, all'interno di una coppia dove tutti... come un po' si lega a certe volte un'idea romantica, ma invece appunto sdogana questa cosa e inoltre appunto dà valore a... diciamo, da valore, si può dire che, appunto come stavi dicendo te, toglie anche le prostitute, le sex worker, da un'idea di qualcosa che non può essere amato, che magari un po' usi solo per un certo scopo. E non per... bravissima, grande! Non puoi guardarmi con questa faccia quando dici certe cose, vabbè, doveva essere un pensiero serio. Comunque, niente, quando quindi... quando mai non riusciamo a fare un discorso lungo più no, di tre infatti, minuti che sia serio e basta. Hai ragione, scusa. ci stavo provando, ma... Vabbè, no, l'importante è apprezzo lo sforzo, lo apprezzo. e niente, anche per questo, insomma, significato, secondo me, è una bella canzone. Sì, sì, ma poi oltre al punto di, cioè, dal punto di vista musicale, appunto, è proprio bella, secondo me è una melodia molto bella, molto tranquilla. Molto sognante, no? Mm-hmm. Sì, sì, sì, è vero. Appunto, lui comunque sogna, secondo me, un po' in questa canzone, no? Sogna di non essere più in una stanza, che a quanto pare una stanza molto piccola, molto chiusa, e sogna invece di ritrovarsi un po', no, in questo nella bosco, natura, nella natura, esatto, di perdersi. Circondato da alberi e da un... disteso forse sotto un cielo di stelle, e quindi sì. Sì, bello, bella immagine. Una bella immagine davvero. Tra l'altro a me ha fatto, ha sempre un po' colpito, se è una cosa strana, il soffitto viola di questa sua stanza. Cioè io non ho mai visto un soffitto viola. Ma credo che anche quello fosse un riferimento al bordello nella quale si trovava. Ah, ecco, vedi? Sì, sì. È interessante. Sì. Perché tra l'altro viola è il mio colore preferito, però insomma un soffitto quindi viola non ho mai visto. Ti immedesimi un quindi po'. Mi immedesimi, lo sogni anche te. Una cosa bella, una cosa bellissima, cioè da un soffitto viola a un soffitto di stelle. Ah, è vero, mi è vero. Sai, come cosa. Ci sta. No, infatti, poi appunto da me, anche non lo so, appunto con tutte queste cose che abbiamo detto su bosco, piante, eccetera, eccetera, che non le avvertiamo, che non le percepiamo, eccetera, però vediamo come all'interno della musica ci sia spesso, ci siano spesso dei riferimenti a gli ambienti naturali, come anche in questo caso il fatto di vedere una cosa positiva nel bosco, anzi di volerci sì, ritrovare. Sì, a differenza magari di alcuni come Dante Alighieri, no? Che diceva la selva oscura è il posto in cui ci si perde, lui invece no, lo fa in un modo più carino. Esatto, esattamente. Oppure in realtà lui vuole perdersi e gli piace perdersi in questa maniera. Bello, questo mi piace. Cioè magari a volte perdersi non è per forza una cosa negativa. Perdersi per ritrovarsi, no? Wow, come siamo filosofiche. Mamma mia, forse dobbiamo smetterla perché sennò... Siamo troppo serie. Cosa facciamo? Cosa facciamo? Facciamo, direi che, allora adesso stavolta però se gliene facciamo ascoltare, gliene facciamo ascoltare solo una, perché trovo che ci sia da discutere. Va bene, comunque ora cambiamo mood, non siamo più sognanti sì. Amanti. Sì, perché sennò poi a un certo punto troppo sognanti amanti non va bene. Sì, esatto, dai. Però vi parliamo comunque di un'altra cosa interessante, vediamo un po' che cosa cogliete anche in questa canzone, va bene? Vai. Dai, d'accordo. Allora vi vogliamo attenti. Vi vogliamo attenti e vogliamo che ci diciate appunto che cosa percepite in questa canzone. Oppure no, facciamo che ve lo diciamo noi. Vale. Lo diciamo noi. Però possiamo controbattere. Sì, sì. Allora tra poco. A tra poco. Il bambino di fumo canta sulla città per chiamare i cavalli che corrono oltre i tetti, ma lassù stringe solo criniere di nebbia, ma lassù solo smog, solo smog. Il bambino di fumo canta sulla città come un gabbiano sperduto tra il cemento, ma lassù non arriva l'odore del mare, ma lassù solo smog, solo smog. La città avvelena i suoi bianchi cavalli, la città l'imprigiona dentro neri cristalli, con i flash, le reclame ogni sera esploderà. Il bambino di fumo piange sulla città con gli occhi azzurri bruciati dal dolore, ma lassù anche il pianto diventa carbone, ma lassù solo smog, solo smog, solo smog. ma a La allora meno movimentata di quanto non sono accesa meno movimentata di quanto sperassimo. Sì, infatti, vabbè, comunque questa era Il bambino di fumo di Lucio Dalla, e per chi non la conoscesse, e che c'hai da dirci in questo? Cosa da dirvi? Che stavo riascoltando il testo adesso e mi è un po' saltata all'orecchio, no, una frase che adesso non mi ricordo esattamente come cosa dicesse, però diceva qualcosa come non arriva l'odore del mare, no? Durante questa canzone, un po' probabilmente per lo smog, appunto abbiamo capito che questa canzone parla di smog. Di smog, quello sì. Credo che si sia capito, però appunto questa frase mi aveva un po' colpito perché alcuni di noi, non vi dirò chi, provengono dalla campagna. Cioè, no, però, insomma, alcuni di noi magari hanno abitato in campagna o abitano in campagna, così, no? E una cosa che secondo me, su cui possiamo concordare volendo, è che in città si sentono degli odori molto diversi dagli odori che si sentono in campagna, no? Per esempio, io spesso arrivo in città e mi sembra di sentire puzza. Non lo nego. Non so se anche a te è un po' questo sentore quando arrivi in città. Ma io devo far finta di essere o non essere quella che viene dalla campagna dopo questa tua... No, accidenti. No, vabbè, allora io vengo dalla campagna. Cioè vengo dalla ragazza che viene dalla campagna. Allora, ragazzo. No, però insomma, magari c'è chi abita principalmente in città e non se ne rende molto conto. A volte se ne rende conto se fa, che ne so, una vacanza, va in vacanza una settimana in campagna, poi torna in città. Effettivamente c'è un odore proprio diverso. In campagna spesso c'è meno odore, non so come descriverlo. Non è che sia per forza odore di spazzatura o di qualcosa, è proprio un odore un po' più agre. Sì, di in campagna. In città. Ah, città. No, ok, infatti, ok. Sì. Cioè, venendo si sente questo odore molto diverso, che effettivamente forse è un po' anche quello che voleva dire lui, no? Che c'è un odore così forte quando si arriva in città che si fa un po' fatica a percepire tutti quelli che sono gli altri odori, no? Che magari invece si sentirebbero in un contesto un po' meno antropizzato. Quindi l'odore di una fioritura, per esempio, si sente... se l'odore è proprio molto forte, altrimenti viene un po' come coperto. Sì, viene filtrato sempre da altro, da sì. Appunto... E è vero, molto vero questa cosa che dici, anche io sono quella della città invece. Ma sono solo personaggi in realtà, non è vero? Sì, esatto, ci stiamo in sì, medesimando. Anzi, no, forse... No, non è vero. No, facciamo così. Vai avanti. Comunque, allora, io sono quella della città. The City Girl, e praticamente, no, e quindi secondo me, insomma, io questa differenza la noto meno, perché alla fine mi sposto sempre città e città, e, però devo ammettere che quando mi trovo in contesti molto naturali e sento magari invece lì passare una macchina o... non so, sì, soprattutto passare da delle macchine magari, lo sento molto di più l'odore della benzina. Cioè, per esempio, si sente l'odore del gas di scarico. Del gas di scarico, cioè è una cosa che in quelle situazioni lì mi disturba. Perché probabilmente per la prima volta, cioè non per la prima volta, però sono situazioni in cui lo senti isolato e non lo senti come odore d'insieme. Esatto, esattamente, sì, sta. Cioè è una cosa che proprio stona, perché tutto il resto invece magari appunto è naturale, è più pulito, e non so, non c'è quella nebbiolina da inquinamento brutto che si trova in certi luoghi. E come definisci inquinamento brutto, vorrei che tu mi spiegassi che cos'è un inquinamento bello. Inquinamento bello è quello dei pollini delle piante che inquinano il naso degli allergici. Quello è l'inquinamento quello bello. È l'inquinamento bello. Va bene, guarda come me la sono girata. Mi piace adesso me ne vado, ti lascio perché non so più cosa dire. E, E niente, e oltretutto una cosa che non lo so adesso, aneddoti parentali, parentali. Okay, okay. Mia mamma ogni volta che andiamo in vacanza in posti puliti si lamenta, cioè no, lì è felice che si riesce, che le si sporcano meno i capelli e poi ogni volta ma che torniamo... Che, a parte gli scherzi è vero. A casa ogni volta si lamenta che invece in città si sporcano di più i capelli. Ed è perché... Ciao mamma. Per lo smog. No, comunque è vero. Cioè, adesso avremo un discorso molto... Così. Solo per le persone attente ai propri capelli, insomma. In città si sporcano più in fretta, ma non so se è solo perché... Cioè, non so se è lo smog proprio che si attacca ai capelli e li appesantisce, però secondo me sì. Ci sta. Non ci può stare. Per esempio, le persone con i capelli lisci, secondo me lo possono capire, appena li lavi, no? Sono un po' più vaporosi. E in città, arrivi in città, dopo un giorno sono lì piatti che ti cascano tipo orecchie di cocker sulla testa e non è proprio piacevole. Insomma, siamo tutti più brutti in città. Un po' più grigi. Sì, ci sta. Un po' più proprio emaciati, così. Fatica, frenesia da città, rumori, blah. Sì, anche quello, anche i rumori, per esempio. Cioè, non sono solo gli odori, secondo me, che si sentono diversamente, ma anche gli odori, no? Vedi. Non possiamo fare le puntate a quest'ora perché il mio cervello arriva. Arriva. Arriva. A un certo punto non ce la fa più e quindi vedremo. Devo allenarlo a stare sveglio fino a quest'ora. Comunque, a parte questo, lei che me... è donna di campagna e domani alle 5 vado è in campo. Però mi sveglio presto, sì, per andare nel campo, fare le mie cose, le passeggiate in mezzo agli uccellini. A parte il rumore degli uccellini, in realtà stavo per dire, in città i rumori degli animali, per esempio, si sentono meno quando sono da soli, nel senso il cinguettio di un uccello è molto difficile da sentire, secondo me. Però poi arrivano gli storni sotto casa mia che si poggiano tutti su un albero e fanno un fracasso veramente bellissimo, però è bello da sentire perché sono lì e si sentono solo loro. Vero, e belli. È il loro momento della giornata, si posano su, cos'è, un pino mi sembra ci sia sotto casa mia? Un pino marittimo, credo. Sì, può essere, sì, un pino sì, marittimo sì. Che ormai non diamo indicazioni, tanto ci sono ovunque pini marittimi. Esatto, no. Però, no, però non possiamo, cioè magari poi gli altri uccelli vanno a conquistare la casa degli storni. Non dobbiamo dirglielo, ma ci richiamo. Allora, uccelli all'ascolto, non andate sotto casa di... Sì, non venite a casa mia, lasciate gli storni in pace. A parte queste cavolate, insomma, ci sono rumori che, insomma, si sentono diversamente, ci sono odori che si sentono diversamente, è tutto colpa dello smog. Quindi... l'inquinamento. No, però a parte questo, esatto, possiamo vedere come alcune canzoni proprio descrivono, che ovviamente adesso sono un po' datate, però come ancora alcune cose si riflettono nella nostra città. Magari, non lo so, a me alcune cose, anche il bambino di fumo, queste idee mi sembrano in certi luoghi un po' lontane, un po' proprio da fabbrica, minera, cioè un po' più con cose proprio di fumi molto molto più pregnanti, non so come dire, e in certe situazioni, in certe città in realtà le vedo come lontane, ma non bisogna mai scordarsi che in alcuni luoghi queste situazioni sono ancora presenti e in realtà che non è davvero così lontano, non sono... Insomma, certe cose ovviamente sono migliorate, però anche nella qualità di vita, dici? Sì, però ovviamente sì, non bisogna mai scordarsi insomma, che alcuni problemi ci sono ancora, ecco. Sì, poi il bambino di fumo, non lo so, mi fa venire un po' in mente anche chissà come... perché io in realtà non sono il mio personaggio, non sono cresciuta propriamente in campagna. Fatto un po' su un po' e un po', no? Però quindi sarebbe un po' curioso vedere come è diverso, no? La crescita di un bambino in un ambito più urbano, che magari è più... il bambino diventa un po' più un bambino di fumo, no? Perché alla fine è sempre in città, sempre a fare cose molto cittadine, mentre magari i bambini che abitano in un ambiente anche un po' più aperto, ma non per forza in campagna, nel nulla, però magari fanno anche cose diverse, non lo so. È curioso anche. Sì, sì, beh, sì, ci sta. Non so se sentirmi giudicato o meno, ma dirò che... recuperare adesso. Effettivamente, credo ci siano in realtà degli studi psicologici, tipo robe, cose su questo. Noi non facciamo psicologia. Noi non diremo, però ci sta che appunto in campagna, in ambienti naturali, abbiano molti più stimoli. Anzi, possiamo anche dire, così per robe che ci sono state insegnate, che ad esempio anche quando si progetta giardini, parchi, per appunto proprio parchi giochi, quindi dove possono esserci presenti per i bambini, appunto, ultimamente diciamo si sta capendo che invece di avere il parco giochi preconfezionato molto tipico da noi, diciamo, quindi lo scivolo, le altalene, le corde, quelle su cui ti devi arrampicare, sì, cose molto standard, dove alla fine anche monouso, diciamo, quasi, che quindi comportano una minore creatività, invece sarebbe bene usare magari cose, non lo so, anche banalmente un murettino, dei pali, robe meno che indicano meno una sola funzione, ma che possono svolgere anche, non lo so, possono essere utilizzati in varie maniere. Cioè, è il bambino che deve andare a cercare l'uso di quel determinato oggetto, lo deve scoprire lui. Esattamente. E anche di questo ci dicevano anche comunque l'importanza della vegetazione all'interno di un parco, anche quella è molto importante. Sì. Perché comunque i bambini, quando sono piccoli appunto, che hanno i loro primi approcci col mondo, è lì che cominciano a un po' conoscere, no, le cose. E se proprio in questa fase manca la vegetazione, beh, non va molto bene. No? Direi di no, direi assolutamente di no. E comunque direi di andare con un altro pezzo. Tre, due canzoncine. E quindi, che diciamo, fanno vedere... Hanno due visioni diverse, diciamo, sì, su un focus, e niente, ve le lasciamo ascoltare, fare le vostre riflessioni e poi ci si risente. Ci si risente tra poco, allora. Ciao! Questa è la storia di uno di noi. Anche lui nato per caso in via Gluck, in una casa fuori città, gente tranquilla che lavorava, là dove c'era l'erba ora c'è una città. E quella casa in mezzo al verde ormai, dove sarà? Questo ragazzo della via Gru si divertiva a giocare con me, ma un giorno disse: vado in città, e lo diceva mentre piangeva. Io gli domando: amico, non sei contento? Vai finalmente a stare in città, la troverai le cose che non hai avuto qui. Potrai lavarti in casa senza andare nel cortile. Mio caro amico disse: qui sono nato e in questa strada ora lascio il mio cuore. Ma come fai a non capire? È una fortuna per voi che restate a piedi nudi a giocare nei prati, mentre là in centro io respiro il cemento. Ma verrà un giorno che ritornerò ancora qui. E sentirò l'amico treno che fischia così. Passano gli anni, ma 8 son lunghi, però quel ragazzo ne ha fatta di strada, ma non si scorda la sua prima casa. Ora coi soldi lui può comperarla, torna e non trova gli amici che aveva, solo case su case, patrame e cemento.

con queste due canzoni. Anche qua appunto si parla di città e chi va via dalla campagna, eccetera, sempre diciamo questo con opposti, se vogliamo degli opposti, boh. E che appunto allora da un lato abbiamo un ragazzo che se ne deve andare, che non è particolarmente felice di andarsene. Oh, sembra che siano felici tutti tranne lui. Esatto. E dall'altra invece abbiamo una canzone ironica, diciamo, su quanto invece la città sia bella, sia sfavillante, brillante, che proprio ti attrae in tutte le sue forme. Esatto. Può essere, cioè effettivamente diciamo la città ha varie cose, appunto tutte, quando dice delle luci, le vetrine, anche noi se qua a Firenze se si va nella via con tutti i negozi firmati, sì, abbiamo tutte queste vetrine che ci inondano in generale, anche su un viale c'è tipo una di quelle, la lotteria, videolottere lì, come si chiama? Sì, sì, sì, quelle che cioè, ha dei fanali che se non vieni preso da quello, non so. Cioè a Venezia invece su un palazzo, spaventano. Su un palazzo a Venezia c'è questa sorta di proiezione, cioè viene proiettata su un intero palazzo una sorta di cosa liquida. Cioè su, come se sull'intera facciata a un certo punto ci fosse questo liquido che sale, sale, sale, sale e poi scende tutto quanto di botto ed è una proiezione continua. Non so se adesso ci sia ancora. Mamma mia, ok. Qualche anno fa c'era, ma era una cosa, immaginati poi tra l'altro il liquido era di un colore molto blu, mm-hmm, e quindi era molto molto appariscente in quel caso. Ho capito. Insomma, piacciono le luci alla città a quanto pare. Però c'è che affascinano, eh. Cioè, allora, guarda, a me, cioè nel senso, le luci mi piacciono, anche tutti gli effetti, sì, luminosi, sì, sì, certi spettacoli anche fatti così, però... Ma anche l'immagine di una vista di un, cioè, una vista di una città da lontano tutta illuminata ha un certo che... Sì, sì, sì, sì, sì, sì, effettivamente non so, magari quando guidi di notte vedi queste piccole lucine. Sì, o anche per forza, non per forza di grandi città, ma anche sì, di borghetti. Le luci dei paesi e dei borghi hanno un fascino, secondo me, abbastanza è vero, particolare. Però sì, no, devo dire che però certe volte in città mi disturbano, sono un po' troppo. E soprattutto, non so, sì, certe volte anche... Le immagini tipo dallo spazio che fanno vedere la pianura padana, sì, sono un po' o quelle zone che praticamente è solo luce lì. Vabbè, sì, mi sta prendendo in giro per come sto tenendo il microfono. Comunque, come se fosse la sua unica fonte di vita, attaccata a questo microfono. Io ci. È che allora, qua ci sono dei problemi. Io non so mai se Sissi stia parlando a un volume troppo basso, quindi io cerco di avvicinarmi per spronarla a. Perché in realtà la cosa divertente è che io quando parlo guardo sempre chi mi sta intorno, cioè sempre che chiacchiero guardando. E quindi sposto la mia bocca da davanti al microfono dove dovrebbe stare a ovunque tranne che parlante nel microfono. E quindi vengo un po' rimproverata per questa cosa. Quindi se mi sentite male è colpa mia perché mi giro, vado poi in giro. Poi magari in realtà ti sentono benissimo, quindi pace. Però non lo sappiamo. Però, aneddoto, un altro aneddoto divertente. E che stavo di... Ah, no, e niente, e quindi appunto queste foto, diciamo, dallo spazio, diciamo, altro inquinamento, inquinamento luminoso, che è un problema, diciamo. Ecco, questo non è un inquinamento bello. No, assolutamente, assolutamente. Decisamente no. Ma torniamo alle nostre canzoni, alle nostre riflessioni e... Ma vuoi sapere una cosa che mi ha un po'... Non so, mi ha divertita, cioè, divertita. Ah, hai fatto una faccia tipo fatto... da... mi ha un po' infastidita, scossa, invece no, divertentissimo. No, in realtà no, non è che sia divertente, è che una cosa che mi ha fatto pensare, no, nella canzone quella della Via Gluck, sì, in cui c'è questo ragazzo, no, mm-hmm, che a quanto pare a un certo punto deve andare via di casa, va via di casa, lui è originario della campagna, deve andare via di casa, andare in città, e a quanto ho capito da questa canzone lui a un certo punto ritorna a casa sua, no, in campagna. E non trova quello che aveva lasciato, no? Sì. E questo mi ha subito fatto pensare, forse perché sono un po' tematica, sono cose di cui ci stanno parlando, no? Ci stanno insegnando queste cose anche studiando. E mi fa pensare comunque alla impossibilità di un paesaggio o di un luogo di rimanere fermo, congelato, mm-hmm, in ciò che è, no? Ma è sempre un po' una continua evoluzione, che poi sia in positivo o in negativo... Secondo sì, me esatto, uno dipende. è molto soggettivo e poi insomma è una cosa che cioè non credo sia possibile che un luogo rimanga fermo così com'è, quindi questo mi ha fatto un po' riflettere insomma. Sì è vero, assolutamente, come abbiamo già detto appunto qua, il paesaggio è mutevole e, essendo fatto da esseri viventi banalmente, sì, però adesso mi pare che nella canzone comunque lo vede in negativo, perché anche poi quell'area viene cementificata. Sì, sì, sì. Quindi perde quindi anche quel suo... cioè, oltre ad essere stato spedito in città, torna pure dove stava bene, eppure li trova... eppure lì non sta più bene. Sembra quasi una fregatura. Dicono, sì, vai, esatto. Poi tornerai e troverai tutto, esatto, bello, invece niente. E, esatto, quindi diciamo, ecco, un altro problema ovviamente è sempre che c'è stato, diciamo, è anche l'eccessiva urbanizzazione. Come ci tendono a dire, ovunque ci sia uno spazio aperto si tende a edificare, esatto, quindi è questa un po' sempre la tendenza, sì, no, che mi sembra ci sia, e quindi anche in questa canzone è evidente, anche lei non credo sia recentissima. No, no, ma quindi... infatti anche un'altra cosa, come dicevi benissimo, spesso quegli spazi aperti cosiddetti non vengono visti come opportunità per creare luoghi verdi, luoghi di socialità all'aperto, ma solo per, oh, ok, un altro spazio per creare un immobile, un condominio. E quindi un'altra canzone di Celentano, Un albero di 30 piani, come dicevo. Un albero di 30 piani. Esatto. Che non vi diciamo niente, ma potrebbe essere in coda. Forse, se ci arriveremo. Vedremo. Comunque. Se no, ve la potete ascoltare, comunque. Esatto, quindi questi alberi di 30 piani, ma a noi piacciono... A parte il fatto che gli alberi che ci piacciono a noi sono anche più alti. Possiamo dire che sono un po' più fighi rispetto agli alberi di 30 piani dei palazzi. Quanto alto è un palazzo di 30 piani? Beh, allora, dai, tu hai fatto un esame... lo scorso semestre, dove dovresti sapere quali sono le altezze degli alberi. Sì, sì, sì, no, ma le altezze degli alberi sì, però non so quanto alto sia un palazzo di 30 piani. Però sai che è più alto un albero. Dipende, di 30 piani? Scusate, avete ragione, ho fatto un calcolo nella mia mente, forse sbagliato. Ma noi diciamo 30 piani, avete presente? Avete ragione, ho fatto un calcolo forse un po' distorto. Ma no, era per le persone minute. Minute, esatto. Le persone minute che abitano nei palazzi minuti, e quelle sono le case così. Comunque sì, è vero che in realtà molti degli alberi sono più grandi di alcuni degli edifici. Per esempio le abitazioni a 1, 2, 3 piani sono spessissimo molto più basse degli alberi. E sì, sì, sì, sì, sì, sì. Vabbè, il mio era nella media. Forse non lì è un albero di 30 piani. Forse un albero di 30... Il nostro albero dovrebbe essere alto, abbiamo scoperto quanto, 90 metri? Sì, dai. Vabbè ci sono alberi di 90 metri. Ci sono le sequoie che diventano altissime. Infatti. Quindi non è detto una cavolata. Ecco. Sì, dai, non in generale. Non generalizziamo mai. Comunque, no, non si generalizza, è vero. Comunque... sempre di questa canzone trovo carino anche il fatto comunque che mi fa pensare sempre a come non si può generalizzare neanche con le persone, no? Per esempio ci sono persone che stanno bene in campagna e persone che stanno bene in città, no? Non sì. Trovi? Per esempio questo ragazzo qua a quanto pare in città non ci stava bene proprio per niente, però invece ci sono persone che arrivano in campagna e si sentono proprio... fuori luogo, si sentono persi, perché insomma alla fine, se ci pensiamo, la città, come si può dire che è un ecosistema, forse ha una sua dinamica, diciamo, però sì, comunque è stata creata dall'uomo, no? Sì. Cioè, se è stata creata dall'uomo significa che qualcuno, oltre ad averne bisogno, ci stava anche bene, perché altrimenti non l'avrebbero fatto. E quindi secondo me un po' bisogna anche ragionare sul fatto che noi magari promuoviamo, no, la bellezza di questi spazi, degli spazi naturali, invece c'è qualcuno a cui magari invece non gliene importa proprio niente e non vogliono andarci, e lo dicono, ma io in realtà in città col mio tram e i miei taxi, sto lì smog, il traffico alle 7 di sera, sto proprio che è una meraviglia, e quindi bisogna accettare anche questi punti di vista. Sì, dai, le accettiamo. Come fa Giorgio Gaber, no? Sì. Non in modo ironico. Non in modo ironico, totalmente. Non in modo ironico, no, però in effetti sì, è un po' così. Esatto. Comunque io in realtà devo dire che di questa canzone di Giorgio Gaber, come forse avevo già detto anche a te, però non sono sicura. Vabbè. Mi lascia un po' perplessa, perché io le ho sentite altre sue e lui a volte è capace, cioè ironizza su alcune cose in modo molto più palese, cioè si capisce proprio che è ironico. E in questa invece due o tre cosine che potrebbe... proprio meno chiaro. Ci lascia un po' quel dubbio, secondo me, ma è ironico o no? Ma così prende tutti. Prende sia quelli felici, no? Di quelle queste cose sfavillanti, sia noi che diciamo, oh, ironico, ce l'ha anche con noi. Prende un po' tutti. Grande pubblico. Perché alla fine cosa dice? Dice che la città è bella, dice che è grande, che è viva, che è allegra. Alla fine non dice cose... false. No, certo, è viva, anzi, molto spesso appunto la gente che si trova magari in campagna è un po' appunto come dice Vita, è persa proprio perché le manca quella vivacità, sì, che sì, c'è in, sì, città, il fatto o anche di avere un po' il caos, cioè, insomma, esatto, il fatto di essere così di fretta, così in caotico, cosa... esatto. Cioè alla fine bisogna anche dire che magari in città, non lo so, cioè, proprio ti tiene occupato volendo, cioè tu, sì, esci e c'è qualcosa da fare. Sì. Poi magari è anche una questione di abitudine, nel senso uno che è, certo, abituato, è abituato ad andare sempre a un certo livello, arriva in città, in campagna magari gli sembra di andare piano, gli sembra che le cose, esatto, vengano fatte un po' così. Però in effetti sì, cioè, secondo me è molto differente, poi dipende sempre dal tipo di campagna in cui si abita, dal tipo di, sì, città in, sì, cui si abita, ovviamente, quello sì. E boom, allora, aspettate un attimo che dobbiamo pensare a cosa mettervi successivamente. Però direi che ci siamo con le scelte musicali. Vai, vai, ce l'abbiamo, questo altro genere. Dai, allora ci sentiamo a presto. Pochissimo. Ci sentiamo a presto. There is a big tree in my garden. A big tree in my garden. In the winter he protect me from the snow. In the summer he get to me some shadow. In the spring he give to me some sweet fruits. During the autumn on the branch of the leaf are gone. The big tree in my garden. There is a big tree in my garden. He was already 100 years old when I'm born. Already 100 years old when I'm born. A tree without roots shall not live, but a tree without new branches shall not grow. There is a big tree in my garden. A big tree in my garden. In the winter it protect me from the snow. In the summer it get to me some shadow. In the spring it give to me some sweet fruits. During the autumn on the branch of the leaf are gone. A big tree in my garden. There is a big tree in my garden. He was already 100 years old when I'm born. Already when I'm born. The big tree in my garden. A tree without roots cannot live, but a tree without new branches cannot grow. A tree without roots cannot live, a tree without new branches cannot grow. There is a big tree in my garden. A big tree in my garden. In the winter it protect me from the snow. In the summer it get to me some shadow. In the spring, he give to me some sweet fruits. During the autumn, on the branch of the leaf are gone, gone, gone, gone, gone, gone, gone. A tree without roots shall not live, but a tree without new branches shall not grow. Eccoci ritornate. Tornate qui da voi. E, allora, innanzitutto, piccola parentesi, abbiamo controllato e l'albero più alto al mondo dovrebbe essere intorno ai 110 metri. Ecco. Quindi dai, alberi. Quindi potrebbe raggiungere l'altezza di un palazzo di 30 piani. È fattibile. È fattibilissimo. Comunque, in generale, questo lo possiamo dire, magari in effetti ci sono, perché mi è venuto in mente, le altezze medie degli alberi. Allora, in città, credo, e credo tu possa dirmi se, confermare, in città gli alberi non raggiungeranno mai un'altezza come quella che a volte troviamo su internet, in cui ci dice altezza massima dell'albero, sì, vero, 40 vero. Metri. Questo magari può avvenire in natura, dove ha la possibilità di espandere le radici. Adesso vedremo anche che in questa canzone le ha citate le nostre amate radici. Mm-hmm. L'albero può espandere le radici come vuole, ha tutto, cioè alla fine si ambienta in un habitat che è per lui più adatto. In città non raggiungeranno mai altezze come i 40 metri oppure i 30 metri. Di solito tendono a restare anche un po' più piccoli perché hanno meno spazio, sono più ombreggiati. Quindi sono poverine un po' più stressate, quindi sicuramente... Sì. Poi tendenzialmente vengono tagliate prima che riescano ad arrivare così in alto. Esatto. Sì, esatto. Se no, già lì magari danno poco spazio sotto, sì. In più dopo le martoriano sopra, quindi diciamo che... Di solito viene fatto così. Mi dispiace non poter dire diversamente, però è vero che c'è qualcuno che magari si impegna, le pota un po' meglio, certo. Però in generale lo standard potature in città non è proprio il massimo. Però vabbè. E comunque appunto con questa canzone un po' cambio di ritmo, cambio di lingua. Sì. Allora, secondo me visto diversi punti. Sì, cioè. Allora innanzitutto anche io vorrei un big tree nel mio giardino. Sì, è vero. Scusate, questa canzone è The Big Tree dei Stand High Patrol. Eccola qua la nostra inglesina. Comunque giusto, niente, quindi abbiamo questo big tree che sì. regala... Quindi è un grande albero, perché non è anglofono. che dona, diciamo, vari bene, insomma, loro ne godono molto in varie stagioni. Sì. E a me, insomma, piaceva questa canzone proprio perché racconta l'albero nella stagionalità. Sì, quindi... sì, non lo fa vedere una volta fine, ma ne esatto, parla un po'. Esatto, anche per quello che dicevamo l'altra volta della percezione che magari un albero si vede soprattutto magari in primavera, perché sì, fa i fiori, vero. I frutti, eccetera, mentre qua ne fa un'analisi più completa durante sì. l'anno e di come può goderne. Quindi viene protetto dalla neve. Cioè, ci protegge dalla neve. E ci d'estate invece ci dona dell'ombra, che era anche stata detta da uno degli ascoltatori l'altra volta. Sì, è vero. Ci dà appunto ovviamente anche magari la frutta, eccetera. E tutto questo è molto positivo. Dall'altra parte appunto si torna sempre un po' con quell'idea di uomo centrico, sì, uomo centrica. Ah, guarda com'è bella che mi fa tutti questi favori. Esatto, che carino questo alberino. E quindi diciamo, non, per quanto gliene riconosca, bisogna dire, sì. riconosce questo valore, però è sempre molto puntato sul fatto di poterne godere di quello che noi riceviamo come beneficio. Sì, questo è vero. Cioè, potrebbe dire, ma guarda un po' che belle foglie, invece non dice, ah, guarda che bella ombra che mi fai. Esatto. Però sì, insomma, è già il fatto che qualcuno percepisca queste cose ci fa... ci rende consapevoli anche comunque di quanto queste... anche gli alberi, soprattutto in città, magari... aiutino molto sotto alcune cose, aiutino con magari la riduzione dell'effetto calore d'estate perché fanno un po' d'ombra, comunque aiutano anche a intercettare le piogge, la neve, appunto, quindi comunque sono, è vero no, che sicuramente, fanno queste esatto. cose, però... E soprattutto appunto tornando al fatto città o campagna, sicuramente in città gli alberi più spesso vengono ovviamente inseriti e usati, se così vogliamo sì. dire, proprio per questi benefici, perché sì. essendo un... ecosistema, tornando a quello che magari si diceva sì. prima, comunque un po' malsano, squilibrato, si cerca di ritrovare un equilibrio appunto andando a sfruttare quelle che sono le capacità degli alberi. Mentre magari in campagna già hanno un loro habitat più naturale dove si possono inserire in mezzo. Si trova anche molto più spesso un albero spontaneo in campagna, esatto. cosa che in città è più difficile che avvenga, mm-hmm. cioè è raro trovare un albero che è lì e ci è andato da solo, quindi non è stato piantato da noi, non è stato... Potato o messo lì apposta più che altro, quindi spesso in città, come dici tu, in effetti, soprattutto in aree in cui non ci sono magari parchi o giardini, però vediamo spesso alberi lungo le strade, lungo le cose, lì appunto sono messi questi alberi prettamente perché servono a noi. Insomma. Esattamente, esattamente. Sicuramente non perché loro andrebbero a stare lì. Esatto. E ovviamente appunto questo anche magari se ne parlerà più avanti, però è bene anche distinguere sempre quelli che sono gli alberi in città e quelli che sono gli alberi al di fuori della città, sì. Per come anche vengono gestiti. Quello sì, veramente. Va sempre fatta una buona distinzione perché appunto ci sono problematiche e sì. regole diverse, diciamo. Sì, anche comunque, appunto hai citato anche queste problematiche. In città, secondo me, spesso bisognerebbe farne un po' una puntata, magari parlare di queste cose. Sì, assolutamente. L'abbiamo detto, mi sa, un sacco di volte. Sì. Perché in effetti a volte molti degli interventi che vengono fatti sulla vegetazione in ambito urbano vengono poco compresi. Per esempio, l'altro giorno mi è capitato andando... io continuo a dire cose riguardo a dove vado e cosa faccio, quindi prima o poi scoprirete chi sono. Andando all'università. Stavo andando all'università. E lungo un viale, non mi dirò quale, ho visto questi ceppi di alberi, no? Sì. Che sono stati tagliati da poco. Mm-hmm. Sono platani, sono lungo un viale. Erano platani molto molto grossi, cioè veramente avranno avuto fusti da un diametro di almeno 80 centimetri, quindi erano piantone, che sono state tagliate. E su queste ceppaie c'erano attaccate dei cartelli con su scritto in varie lingue perché. C'erano solo questi fogli A4 messi in una busta di plastica legati a questo tronco con su scritto perché, why, anche in spagnolo mi sembrava ci fosse. Mm-hmm. E questo un po' mi ha fatto pensare come a volte non cioè, noi diciamo sempre vengono potati male di qua e di là, però a volte alcuni interventi in città sono necessari e quindi forse è carino parlarne, sarà sì, carino parlare sì. di questa cosa. Per esempio quegli alberi lì è possibile che fossero stati tagliati perché erano pericolanti. Esatto. Ci sono alberi che magari apparentemente non sembrano avere problemi, però un'analisi un po' più attenta, un po' più esperta, si rende conto che effettivamente sono pericolanti, quindi dovremmo parlarne di queste cose sì, perché sono interessanti. Sì. Infatti, diciamo, si dice un po' di non giudicare un taglio, un abbattimento se prima non si è vista com'era la pianta. Sì, è vero. Perché, cioè, ovviamente, allora, appunto, questo, poi c'è ancora tanta poca informazione o alcuni lavori ancora vengono fatti senza una giusta attenzione, quindi non Ma stiamo senza giustificando. Cioè, secondo senza... me ci sono anche molte persone che non sono istruite correttamente esatto, nel fare alcune operazioni, quindi le fanno esatto, senza sapere cosa stanno esatto. facendo. Quindi non cioè, uno diciamo che ci sono varie problematiche, non è una sola. Cioè non stiamo cercando nessuno. Di giustificare, esatto, però appunto di far vedere la complessità di tutte esatto, queste sì, sì. realtà. Prima o poi, promesso, ne parliamo comunque di queste cose, perché sono veramente sfaccettate e intriganti, secondo me. Cioè, più che intriganti perché spiegano molte cose. Per esempio, banalmente, adesso butto un sacco di cosine così poi dobbiamo farla per forza. Appunto. Esatto. Per esempio, un albero capitozzato, non so se voi lo sapete cos'è un albero capitozzato. Esatto. Non ci cioè, piacciono! La capitozzatura in un albero che non è mai stato capitozzato, farla, sinceramente, a me piange il cuore. Mm. Però un albero che ha diversi anni ed è stato capitozzato per diversi anni, non si può tornare a potare come prima. Cioè non si può permettere che lui cresca più spontaneo dopo, perché cresce in un modo diverso, ha rami molto più sì. deboli e quindi deve essere capitozzato di continuo. Sì, quindi... perché diciamo è già stato compromesso, quindi ha meno forza per sì, reggere una lunghezza di, insomma, i rami nuovi troppo lunghi. Sì, E comunque basta perché vi stiamo spoilerando. Se no, facciamo 10 puntate in una. sì. Ma così se no diciamo troppe cose ma non diciamo niente. Esatto. Poi comunque... vi abbiamo promesso musica. Esatto, quindi tra poco ve ne partirà un'altra. Però comunque c'è un'altra cosa Vai. Che mi è piaciuta di questa canzone. In cui a un certo punto dice 100 years when I'm born, una cosa del genere. Mm-hmm. Ah, dice che aveva già 100 anni. Quindi aveva già 100 anni quando sono nato. E questa è una cosa che mi ha fatto pensare a una vecchia puntata, non ricordo quanto vecchia forse era la scorsa. Vecchissima! Ecco. Però in cui avevamo parlato, sì era proprio la scorsa, in cui avevamo parlato di dei motivi per cui a volte fatichiamo a comprendere no, le piante. E uno dei motivi che avevamo trovato è il fatto che loro vivono in un tempo molto più dilatato no? rispetto al nostro, quindi nascono e crescono in tantissimi anni, cioè questo gli alberi in particolare, alberi arbusti, insomma le erbacee, magari ci sono anche le erbacee che vivono in un anno solo, però mm-hmm. gli alberi a volte vivono 500 anni, no? E questo è molto diverso da noi, che invece di solito 100 anni si dice: oddio, ho raggiunto i 100 anni. Esatto, grande vittoria. Anche questo, sì, mi ha fatto pensare. Sì. Poi è tipo un... non lo so, me la vedo molto come figura tipo del saggio, no? Il giardino. Sì, sì, lui sì. È già vissuto 100 anni. Guardalo come sapiente. Bellissimo, con questi ramoni. Queste brancone. Brancone. Queste brancone. Vabbè. Basta. Facciamo... una piccola interruzione. Sì, allora, aspettate ancora un altro... allora. Scusate un secondino. Intanto potremmo parlare di questo? Sì, questo qua. Sì, direi di sì. Direi di sì, direi di sì. Vabbè, lei dice di sì, spero non abbiate sentito i miei bisbigli. Ma al massimo non potete sapere comunque cosa abbiamo detto, era troppo sbigliato. Quindi a tra poco. A tra poco. Il sole è stanco a letto, presto se ne va. Non ce la fa più, non ce la fa più. La notte adesso scende con le sue mani fredde su di me. Ma che freddo fa, ma che freddo fa. Basterebbe una carezza per un cuore di ragazza. Forse allora sì. Dal fuoco del tuo grande amore che si è spento già. Ma che freddo fa, ma che freddo fa. Questa era Nada con Ma che freddo fa. Ma che freddo fa. D'altronde abbiamo iniziato questa puntata dicendo che ce la freddo oggi. L'abbiamo fatto apposta. Sicuramente l'abbiamo fatto apposta. No, no, però posso dirti una cosa divertente? Vai. Questa qua mi sembra la tua coinquilina. Cioè le assomiglia. Non so perché, ma mi ricordo, l'ho guardata e ho detto, ah, sembra la tua coinquilina. Ok, però, che forse ci stanno ascoltando. Che forse ci stanno ascoltando, quindi... cioè, credo sia un complimento, secondo me è carina, però... però e se la cerca di rigirare così... non è vero. Però comunque sì. Tanto non saprete mai, cioè, le mie coinquiline non sapranno quale coinquilina. È vero. Quindi... però secondo me ci assomiglia, quindi ci possono arrivare. Vabbè, comunque, dette queste cose, siamo un po' tornati, no? Sul tema iniziale dell'amore. Dell'amore e delle piante. Esatto. Piante. Fiori. Un sacco di cose legate all'amore, questo immaginario. Chissà perché quando la gente pensa all'amore ci mette in mezzo le piante. Dai, bello, un po' così. Un po' perché forse sotto sotto istintivamente noi amiamo le piante e quindi amore uguale piante. In realtà, ce le leghiamo. Esatto. Può essere, può essere. E cosa ci ha colpito di questa canzone? Cosa ci ha colpito? Vabbè, allora, parte il ritornello che magari commentiamo dopo. Che cos'è l'amore? Stonatissima. No, vabbè. No. Comunque sì, non lo so, è che mettono sempre un po' a confronto, no? Mm-hmm. In questo caso, allora, prima abbiamo sentito Gino Paoli che ci parlava invece di questo amore che lo ha un po' fatto sognare, no? Sì. E quindi era più un'accezione positiva di questo amore, di questa natura. Mentre in questo caso mi sembra che sia un po' più... cioè, ci fa capire che cosa sarebbe senza l'amore. Esatto. Giusto? Mm-hmm. Sì. E quindi alcune cose che ha detto mi hanno colpita, adesso vediamo se riesco a ricordarmele. Una sarebbe un po'... mi sembrava avesse detto come una farfalla non vola più... cioè, sì, come non vola più sui fiori, che sui fiori non vola più, sì, esatto. È un po' quindi se non c'è l'amore è come una farfalla, noi sappiamo, abbiamo detto la scorsa... non ricordo, allora, non so se fosse la scorsa volta o quelle prima. Vabbè, è una nostra puntata. Comunque, in una ma nostra così, puntata. Ma tu di che non sai, così i nostri ascoltatori andranno ad ascoltare tutte. Sì, e ci direte tutte. Poi quali sono tutte. E poi volta per volta dovete dirmi quando ho parlato degli insetti, quindi sarà tipo ogni puntata. Comunque abbiamo detto che gli insetti sono mezzi importantissimi per la diffusione del polline. Mm-hmm. Comunque, infatti le farfalle le vediamo sempre sulle lavande, mi savano molto. Sui fiori di lavanda. Sì, sui fiori. Oh, che belle le farfalline. Esatto. E quindi comunque dice un po' senza amore, è un po' come se le farfalle non andassero più sui fiori. Dove... sì, ma la vedo anche un po', non so, più senza meta, un po' sì. Così. È vero. Perse anche loro. Vero. Tutte perse sono le queste canzoni. Comunque. Tutte perse, è una puntata un po' così. Sarà il freddo che torna, mi mette un po' di malinconia. Sarà che noi siamo un po' persi in questa puntata. Può essere, però abbiamo deciso di fare una puntata un po' vagabonda. Comunque, a parte questo, c'era un'altra frase anche, che è un po'... questa non me la ricordo. Cioè, mi ricordo che l'impressione che mi ha dato, ma non me la ricordo nel dettaglio. C'entrava con le speranze che cascano come le foglie. Sì, che il vento esatto... ah, butta giù forse. Butta giù le speranze come le foglie. Sì, esatto. E noi vediamo quando, per esempio, in autunno, no, si sono seccate le foglie. A me, questo autunno in particolare mi ha divertito molto perché c'era questa quercia che era vicino a casa mia, che aveva seccato tutte le foglie, no? Però le teneva su, belle strette, se le teneva sui rami. A un certo punto sono venuti 2 giorni di vento, ma di un vento così forte che in pratica io non è che non sia uscita di casa, ma non sono andata da questa quercia per un paio di giorni, mi ci sono avvicinata qualche giorno dopo e tutte le foglie erano per terra, ma sarà una quercia di 100 anni, quindi comunque una gran quantità di foglie. Tutte per terra, e quindi povere speranze esatto, le foglie. Ha perso tutte le sue speranze. Mamma mia. Ma adesso le sta riacquisendo le sue speranze? Penso di sì. Ma le querce in primavera si muovono abbastanza tardi rispetto ad altre piante. Quindi per ora ci sono i frassini. Loro stanno riacquistando. Sì, ci sono gli alberi da frutto adesso cominciano a muoversi un po'. Loro sono ancora un po' fermette, loro tendono a muoversi un po' più tardi. Ma sono perché sono anche intelligenti, aspettano il caldo. Dicono io non sto qua a prendere non sono gelate. Così speranzose loro, dicono loro vanno con i piedi. Poi soprattutto vanno dopo che le speranze gliele fate cascare esatto, tutte no, vanno con detto, calma. Faccio tra un po'. Fanno bene, vedi, che intelligenti. Potrei essere una quercia. E invece, tornando sul ritornello, dicevamo, qua ci siamo confrontati, abbiamo avuto interpretazioni, diciamo, ci siamo date interpretazioni differenti sul fatto di che cos'è la vita senza l'amore, come un albero che foglie non ha più. Sì. E allora, diciamo, appunto, io l'avevo un po' interpretata così, sul fatto che si paragona la vita senza, senza amore come se fosse un albero spoglio. Sì. E come immagine in realtà, diciamo, poverino l'albero spoglio, perché vuol dire in realtà ci sono alcuni alberi con delle forme, con delle proprio, viene proprio detta architettura anche dell'albero. Che sono bellissime, sono che proprio le vedi con un'eleganza e che descrivono... che occupano veramente lo spazio anche loro, riescono comunque a dare hanno un loro fascino. Esatto, anche che spesso non viene considerato. No. E secondo me questo si può legare anche un po' sempre al discorso di chi è soprattutto chi è abituato a vederle in ambito urbano, le vede un po' martoriate forse. Sì, me, esatto, tornando sulle potature. Sì, per esempio un platano se non viene potato così tanto spesso in realtà ha un portamento molto espanso. Mm-hmm. Che a volte in città non è. Non viene reso oppure, bene. Oppure anche i cosi, non mi viene in mente il nome, di dei Bagolari. Ah, okay. I Bagolari, che sono chiamati Celtis Australis. Ecco, esatto, perché usiamo un po' di nomi. Il Celtis Australis in città viene usato tantissimo. Sì. Lo riconoscete perché ha un fusto di un colore abbastanza scuro. Mm-hmm, sì, grigio scuro. E fa queste bacchette che forse potete riconoscere. Fa delle bacchette nere, mm-hmm, che sono appetitissime dagli uccellini. E le fa, mi sembra, quando... Non ricordo quando. Non ricordo. Comunque lo riconoscete, è un albero molto maestoso. Adesso forse anche lui sta buttando fuori le foglioline. Mi pareva sui viali. Sì, un po' verdini. E comunque questi alberi in realtà hanno un portamento, hanno una chioma abbastanza, non dico globosa, così tonda, però si espandono tantissimo. Sì. Mentre io li ho visti lungo i viali, sono altissimi. Sono altissimi e dritti. E quindi, insomma, anche questo mi fa un po'... Non mi... Sì, è vero, non sono... Magari non riescono ad esprimere tutta la loro bellezza, potenza. Sì, sì, assolutamente. Quindi comunque tu dici, lo legavi più a un concetto di... Sì, nel senso che comunque, secondo me, è giusto sottolineare come in realtà anche gli alberi da spogli... E gli alberi spogli abbiano una loro dignità, diciamo. Sì, ma anche proprio fashion, esatto. Mentre te, dicevi? Io in realtà l'avevo vista un po' anche come... Cioè, dipende, perché secondo me è un po', non parlo di amore, prettamente amore, relazione tra coppia, però l'amore in generale, che sia l'amore verso la famiglia, l'amore verso il proprio cane, comunque in generale secondo me non si può vivere completamente privi d'amore, no? No, certo. Così come una foglia in realtà a lungo andare senza le foglie muore, perché sappiamo benissimo che il modo in cui si procaccia da mangiare è attraverso la fotosintesi, quindi utilizzando il proprio fogliame per produrre ciò che le serve, utilizzando l'acqua, la luce solare e quant'altro. Quindi ho un po' visto questa cosa come senza amore non si può vivere in realtà, così come una pianta non vive senza foglie. Giusto, anche questa è una bellissima osservazione e niente, quindi direi che abbiamo dato spunti anche su questa canzone. Sì, se volete poi la prossima volta potete un po' dirci che cosa, come invece l'avevate interpretato voi. Esatto, cosa preferite. Cosa preferite, se l'amore oppure la vita senza. Ma magari, esatto, sempre senza generalizzare, c'è chi sta proprio bene, sì, senza però nessuno. In quel caso, secondo me, ami se stesso. Ami te stesso. Cioè, ci sta. Oppure, cioè, se no, non hai mica proprio una bella vita. Se odi tutti, odi te stesso. Cioè, sì, un po' depressione, dici. Può essere. Proviamo. Ami te stesso. Diteci un po' anche voi. Va bene. Ok. E ora, diciamo che siamo giunti all'ultima canzone. Sì, diciamo di sì. Vi lasciamo. Con un inno. Un inno che di qualcuno di cui sicuramente conoscete l'identità. E quindi non vi diremo chi è. Ciao! No, forse dobbiamo dirvelo. Sì, dai. Vabbè, si tratta della canzone Earth Song di Michael Jackson. Michael, ciao! Forse ciao. Dobbiamo dirvi. Noi stavamo già salutando e tutto, però sì, magari... Era già a casa, sì, sì, lo dico. Mi stavo già andando a dormire, buonanotte. No, però forse... Vabbè, l'ultima cosa che vi diciamo è che magari ricordatevi di collegarvi la prossima settimana. No, la prossima settimana no. Ecco, perfetto. Alla prossima puntata. Aspettate, test. Alla prossima settimana. Allora, alle ore 9, sino alle ore 10:30. Con ovviamente il quarto d'ora di ritardo accademico. Vabbè, che diciamo, ma noi ci fidiamo anche che il fatto che, allora, noi arriviamo un quarto d'ora di ritardo, ma diciamo alle 9 perché sappiamo che anche i nostri ascoltatori arriveranno un quarto, quindi così, esatto, dopo ci si trova. Sì, sarà alle 9. Tutti con calma. Facciamo le cose con calma, perché sennò se facciamo le cose di fretta non va bene. No. Infatti non ci piace questa frenesia della città. Tutti tranquilli. No, tranquilli, tranquilli. Portiamo la tranquillità anche in città. Sì. Comunque, allora, ci troveremo settimana tra due settimane di solito, sempre su radiowombat.net. Esatto, che ringraziamo sempre dello spazio. Lo spazio che ci fornisce per parlare delle nostre cose. E quindi vi lasciamo con questa bella canzone. Questa sera avete parlato con Sissi e Zazzi. E grazie di tutto, alla prossima. Buon ascolto. Ciao. What about sunrise? What about rain? What about all the things that